fango, fango. Piango, piango, piango, fango. Di te buttato su me come fossi niente. Piango, fango, ora vedo. Ora vedo lo sclero che c'era intorno, di cui me ne fregavo, ma me ne frego ora. Il mio psicologo, il mio microfono, la mia cura, la mia terapia, dote di bravura. Forse, forse perché devo ancora trovare la rima perfetta che descriva la merda che c'ho dentro, per farla splendere oltre il grigio che mi è coperto, per fare smettere di esplodere un cuore d'emozioni diventato freddo, e ricopro ogni sensazione di un sordido terrore, un malore che mi prende. Oh, ti ricordi io e te quando portai pasticcini? Ti ricordi io e te quando eravamo lì? Vicini, vicini, lì, lì, quasi per baciarci, ma t'ho chiesto un bacio e tu mi dissi: non è il momento giusto e non me lo chiedere, forse me lo dovevo prendere. Il mio psichiatra garantisce così che non sei quella per me, perché il microfono no, dice no a lei. No, te, capito, lei ti odia, lei non vuole te, vuole solo me, che sono un buffone, perché è più facile per me arrivare alle mutande invece che al cervello, invece te manca la spinta per... ti distruggo, microfono psichiatrico, perché non sai quello che è in agguato nel mio cervello. Ti distruggo, manco fossi un pivello. Te non sai arrivare alla radice del sé, del perché io, del per come io sono e del centro di lei che è. Lei, lei che è dentro me, voglio soltanto sedare la voglia di uccidere me per uccidere te. Voglio sedare la voglia di uccidere me per uccidere te e per uccidere lui che c'è in me. Fuggi, fuggi da me. O sarà suicide killer about myself. Questo microfono è un coltello, una pistola puntata alla nuca, perché tu sei dentro me, ma non ti voglio uccidere, voglio sedare me. Voglio sedare solamente il mostro che è me, che vuole uccidere te dentro me. La voce onorevole di mio padre dice zitto, se lo seguirei, se avessi pure una ragione fondata per farlo. Padre, scusa, non sei te, è il tarlo che ho io, e credo che tu mi voglia dire: prendi me, scegli me. Ma lei decide sempre che non è il momento, non sono io che non sono un adulto, rimango un bambino col sogno del mito dentro di me. Frank non è, ma il coniglio bianco in me che vede l'oscuro e dice: prendi te, mi riprendi, prendi e mira bene dentro la nuca, perché se sceglie un altro è bang bang. Onemma mia, prega per me peccatore, io sacro de monogamia. Sono un diavolo con l'aureola perché t'ho scelto soltanto te, perché quella volta che eravamo io e te volevo solo te. Occhi chiusi per un futuro che non c'era già, era tutto eroina, droga, sesso e rock and roll, ma non per te, non per me. C'era qualcosa che divideva ogni sembra, ogni volta il nostro gusto era un altro che al nostro posto, decideva per noi, era soltanto un opposto al nostro essere insieme, che non volevi nemmeno te perché non volevi proprio uno che non voleva qualcosa, che voleva soltanto una soda, soda, soda, overdosa, e voleva soltanto mettere contro e sedare se stesso, dentro a un eccesso, oppure è rimasto di me soltanto un cesso con cui cagare me stesso, rimango qui un ossesso perché prendo possesso, sono il diavolo, prendo possesso di Lorenzo e spiego a tutti perché lui è soltanto un controsenso, non ama sesso, non ama sesso, non ama le donne, non ama le gonne, non ama le gonne, non vuole tirarle giù, non vuole fare sesso, e per questo c'è il pisello che crede sia piccolo, crede sia piccolo, crede sia piccolo, un onore, un disonore, forse un catetere che tu non ami, perché certe volte si pensa così per la solitudine di anni oppure di anni eterni che non finiscono mai, durano secoli, sesso sono 600 e 365 croci, 666 con 365 croci, un 666esima con religiose fottute 365 croci, la scheda, la riga e prega, la scheda, la riga, poi prega e prega, poi vattene, vattene, scappa pure da quella benedetta chiesa, zio, Dio, figlio, padre, spirito, perdona questa rima che rima veloce, vado veloce più di un treno, con dietro una croce che pigia la schiena viola come il Bettiano, sono triste, non faccio, io faccio, io dico, io spero, spero in me che faccia un volo nell'aldilà, perché qua non ho trovato nulla che mi possa salvare, e quindi che cazzo dico se sono un rigore già messo dentro sette, o prego il dottore che confermi ogni punto mai fatto, che questi punti diventano un puntinismo, sarà di un miracolo di te come un viso puntinista che venga fuori una Monna Lisa, sarà. Voglio vedere il diavolo, voglio vedere uno che va veloce su un beat, voglio vedere che se sono capace di fare una cosa più hit, più chic, vogliono vedere se la mia merda funziona pure quando vado a 300, vogliono vedere se la roba quando c'è il muro poi schianto, vogliono vedere se il piscia a letto qui riesce a fare una roba sera, con un puntino in testa ti faccio un Picasso, ma va, vado veloce come un treno, più veloce di quei quando si muove, si trovi dentro un treno, e treno contro treno, Ray Rover in the sky, in the sky, squat, oppure ti rappo in tedesco così faccio aia, quando senti questo beat tu scleri no bra, faccio prima veloce più come se faccio dentro te una croce sul cuore, ci metto finita la storia, tu vero rallentatore, allora dimmi perché cazzo rap il mio rap così denso, rimango qui sono Lorenzo, sono soltanto un ossesso, sono un diverso da me stesso, mi hanno portato di là, ora sto tornando nel cuore e sono voilà, riprendo tutto quando vado veloce come un treno, riprendo tutto sono soltanto più sereno, e quando il mio microfono, il mio scrittore dentro me stesso si sveglia e allora barilla, la casa s'accende, frate, famiglia, meraviglia è ciò che vorrei, ma rimango con una dentro che non spinge più, rimango qui e sul suo beat ti faccio Beelzebù, bu bu na mamma, sette te faccio pure paura a Geminiam, e Shady e Gue vorrebbero un VS, sfidarmi se stesse dentro una limba, dentro una Lambo, se faccio pure la casa di Gemini, frate, un incanto, sono gemello di me stesso, sono il terrore, l'ossesso, sono il poeta pregresso, sono il post-progress e stress di un post-Covid generale che genere paure, che faccio sto freestyle manco fosse la straccia ultima che fanno da datura, datura, dature. Vado in alture dentro. Se sbaglio qualcosa, beh, fra almeno era a tempo. Ah, fasterò nel vento con l'eroina dentro che fanno un portento soltanto per 3 minuti di tiro, 20 di scheda oppure un'estasi in volo tipo mi faccio una pera con nero di boom. Boom boom cia, omertà, quindi faccio un tiro con 120 fra, faccio un tiro perché sta vita tanto di merda lo è già, faccio quello che voglio su sto beat, poi lo sfregio, ci faccio una croce, sì Roberto Baggio nel 7, ci faccio un bla, che non so perché parlo di pallone quando penso al rap. Perché forse il pallone è espressione del fisico, quanto il rap della mente, dell'elasticità di un tiro, di una scheda che non finisce mai. Questa vita, frate, è piena di guai. Non lamentarti, fai un po' l'ironico col rap. Stavolta ti faccio una traccia miracolo fra che tu canti chi? Io stesso dentro me, casa di Gemini. I fuck one of a family of twin. This is my bro, whale boy. Yeah, do I not understand why I don't make a name? This is Omerty. Is a friendship with against. Sto con i criminali che fanno affari per volare con lei alle Baleari. Mirilei per silenziatore. La rima è come un'arma silenziatore, una pistola che non fa bam, ma fa. Corro con una pistola in mano contro quell'ambulanza, contro quell'ambulanza. Non voglio più una stanza psichiatrica. Corro contro quella strada così vasta, così densa di alberi che fa paura più del nero che c'è dentro alla tasca, fra. Perché magari ti perdi, lì non ti ci ritrovi, ma forse non ci fai, forse ci fai, ma non ci ritrovi dentro ai rovi, finisci dentro, fra. Quando pit pit purva. Non si sa poi come va. Io brindo a me stesso che ho dentro me stesso, che è bianco o nero, fatto sono uno stesso sul beat, sono peggio del sesso. Quando chiavi mi pensi perché ho detto rock bad in quella strofa là. Cazzo sono un progetto che ho in mente, che punta a un letto ripetutamente. Cazzo c'è in mente un letto fra. E quella roba che c'è di là si sta maturando, diventa una cushit, fra un po' la mia stanza esploderà, esploderà. Living with that my bad, living one day by day. Divento più veloce di un jet, più di Cosimo Fini, più di jet. G pechegno, volo su sta brace, ma che fosse un segno, traccia nella storia che metto una breccia. Scrivo il mio nome in grassetto, sopra tutto sto jet set, faccio jet set, anzi faccio jetman, con tutta piena di beat, faccio un rim, rimango qui swing, tipo io king, e tipo il tu G, rimango qui G, the king, flower of crazy flower of Lewis Strauss theory, rimango qui tipo che volo più forte, a volte mi sbaglio ma almeno vado a tempo oltre la morte, col mio microfono psichiatra che dice fai finta di non avere detto niente, in questo beat non si sente niente, pure Fabi Fiva mi dice di esprimere e dire tutto ciò che mi passa per la mente, rimango un demente sulla base oppure un genio, non si sa, certe volte è così, certe volte è colà, è come da lì, lo chiamano anche di là. Quando c'è da pittà, vanno o da lì vieni di qua, che ti dico cosa fare, che ti do 100.000 euro. Lui diceva, vabbè, per favore dammene 1 milione che è meglio. Quando faceva l'ultima parte della sua carriera faceva solo le firme, le vendeva a un grande prezzo soltanto per grandi firme. Vabbè. Casa stilistica, fango d'umma, Jiggers. Sta per partire, già fallita, tu non mettere mica il tuo dito tra me e lei. perché io te lo mangio, te lo mordo, tipo il tuo stipendio è troppo corto per il mio pisello e la mia opera d'arte, perché qui dentro c'è scritto outsider artist e nell'opera c'è scritto che devi stare zitto e farti da parti o farti a tre parti, mozzarti la lingua, schiacciarti la figa e morderti pure il polpaccio, perché ti faccio una porca puttana, mi sono dimenticato la rima. Troppo veloce. Facciamola un po' più veloce. Andiamo più veloce possibile su sto tempo. Parto piano, manco fossi una poesia di Luigi Tenco. Tengo il tempo, sfrequenzo pure la poesia che poi tengo dentro. Mi viene quasi l'acidità di stomaco per quante rime vomito. La differenza tra me e gli altri che io rappo sempre di tutto e anche dei miei momenti peggiori, quando io rimo faccio sempre degli errori di cui poi mi esprimo e le esprimo attraverso una rima che ritengo compiuta. Rimango qui, mica sono un computer, anzi sono computer meno lui, e quindi facciamo un bis, non un tris, quindi i piatti metti nei due su quella tavola, un tet a tet con una candela e basta. E chi se ne frega della scheda della rima quando c'è il sesso come droga, e chi se ne frega del fibroga se metti ancora una traccia su di quel clavgo. Io gli faccio una rima che magari gli do fastidio per l'eternità, rimango un piscialetto come lui, ma very fast. This is a G, cause this cannot tell me about me, cause I feel his pain and don't tell me about me. I'm not this boy, I'm a horse of a shady teddy's horse, and I'm a black horse searching for a clean fine little things and cause. Voglio un palazzo di ghiaccio, voglio un palazzo di ghiaccio, sono un orso di ghiaccio, ma è di cristallo. Quindi io divento di ghiaccio, ma il cristallo ci specchia. Se rompi il mio specchio, lo specchio si annera e si invecchia, con quello del fede, rimango qui in fede. Dopotutto sono ancora quel ragazzo lì, sì, che scriveva nel vocabolario, tra le male, tra le strade, Santa Mala, fa una rima, fa male, più di un arsenale. Tieniti per te questa traccia, tieniti per te, perché non puoi dire sul mio nome questa freccia. Cazzo, tu dici ciò che dico, sembri me, quindi terza identità che mi trapassa. Siamo in tre già in questa rissa, in quattro anzi è festa, siamo in cinque post covid, non si può fare la festa, ma tanto rimaniamo eternità, identità dentro un'unicamente, bra, si unisce la sesta, settima identità, bra, sto andando di fretta, prendi per mano questa Međugorje che ho tatuato in mano, prendila bene, stringila frate, sono un aeroplano, G, e c'ho freddo più di un santo cristiano che si affretta a pregare Dio e riceve benedizione da Dio. Vieni con me oltre quel bosco che ti chiude gli occhi, girl man. Abbi cura di lei, se no and boom da da boom da da boom. Mi han detto che sono un bambino, quindi lo esprimerò tutto, ah? Sono il bambino mostro e sei nei guai se io fossi al tuo posto. Sai che vorrei andare via, vorrei fare follia con lei, ma sentendo sta traccia che tu non senti, perché ama lo spacciato, che gli spacciato, che è più man di man, perché c'è il che spaccia, che vorrei fare più soldi, te stai spacciando opere d'arte a New York in una villa al mare, ma purtroppo non so essere come te, figo come te, che spacci hashish, crack, sushi, coca e rap. Lo senti sto aeroplano sulla testolina, manco fossi l'inventore di Yoshi. Oh mamoshi, cazzo dici, non è Yoshi, eh? Un cartone di cui non ricordo, di cui ho avuto un'immagine da te, perché tu sì. Oh, oh. Tu, punto il dito anch'io adesso, faccio un bullshit lo stesso, anche se sei meglio, wow. Sei meglio, wow. Oh, sei più pulito, ma wow. Te l'ha data, wow. Che vuoi che ti dica? Se qui non partorisci una figa, se vado a 225 all'ora, non partorisci neanche la console che ti sta davanti, perché non riesci a screcciare a questa velocità, non riesci a screcciare a questa rima. E poi, se io ho detto nello psichiatria che sono Totorina, magari vado in meno che su MTV. Io sono il pazzo, quindi frate, stai attento. Vediamo, una Ferrari di media fa 320 km orari, quindi fai un bel rapporto alla polizia, perché sto andando davanti a un telepass veloce. Sì, non rimo veloce, quindi faccio tu una cosa davanti al segno della croce, perché è meglio, perché io non rimo più violento di così, sono un portento, sono una tragedia, un progedio, un talento. Sono la rima che si fa Totorina, sono quando incateno due parole per fare un mitragliatore, beh, faccio il caricatore, il cannone, la canna, fatto dentro una pallottola, bang, bang, bang, this is a gang bang with this pusher, così magari facciamo gli uomini stavolta, no, non era amore, era solo sesso, beh, e allora lo dico anche lo stesso, anche se era amore, perché forse quello che tu reputi amore è il sesso, che ti dà un'ora di calore, di ero con lui dentro un bagno, a scopare contro il muro come se fosse degno di possederti, come se fosse il demonio, perché tu non hai bisogno di un uomo, hai bisogno dell'oscurità, di un posseduto, di un demonio. And I'm a devil and express you, cause you need some dark shit. Oh, non mi piace il pulito, non mi piace l'onesto, il figo, il disonesto, il criminale, il portento. Dentro una traccia io cerco soltanto lei selvaggia. Dentro una traccia io voglio lei che scopa e me la dà e basta. Oh, non voglio sfruttare Clavergol, a me la musica non piace. Non sono quel tipo di uomo, a me piace fare sesso, non sono un frocetto. Anzi, sai cosa ti dico, so che lavorare piace alle donne, perché sembro un uomo con in mano un cacciavite. È meglio, questa roba è tecnica, tecnica perfetta, è talmente tecnica che la tecnica va meno di fretta. Last round, this is the ground things. Yo, when I dancing in a benzin, Mercedes Benz, benzin. Cioè, mica 30 euro per pagarmi la benza per sto viaggio, che mi manca la voce. Oh, che cazzo, c'ho la croce al collo. Oh, che cazzo, i genitori mi hanno dato dei gioielli che pesano un trono. E quindi mi vesto da loro, mi vesto, e in classe la prima volta in cui ho fatto cicci, sentito nella left un tuono. Vado più veloce di Antonio, di Giuseppe, di tuo zio, che va un ablambo, io vado tipo rimo sghembo, frequenzo sto tempo, manco fossi attento, attento a fare nomi, sono inventati frate, perché non ho trovato una famiglia veramente da ditare, perché alla fine mi state veramente simpatici, andando veloce mica siete antipatici, siete indietro, non andate al tempo, che cosa ti devo dire se sono un talento, un prodigio, un portento, e sulla traccia io sono Mozart, e quindi tu citi la bocca che non riesci a fermare sta rima, manco fossi salito in cima, fai la scimmietta, scavalca il muro che porta al mio show stavolta, mentre io rimo da una nave spaziale atterrata sul palco, sì, questo è Jigger's Show, mica un altro. underground stavolta mentre mi fumo tutto John Travolta mentre sei travolta. Oh ah, oh ah, ah come l'artista, oh come il bimbo. Insieme fanno il nino, mai con fanno el nino. Vado veloce più del vento, sono un cigno nero, black swan. E faccio sculture tipo fossi Iago. Fa culo, tutti andato, tutta una chiesa me la fanno pagare. Tipo fossi un coglione, pubblicità arsenale. Tiro giù quel palazzo in cui l'Emilio è andato a lavorare perché mi volevo fottere sua moglie. La Mary, ti prego per favore non fare i nomi. Come possiamo dirti che i cognomi sono meglio se inventati e i nomi se non mai citati in nessun tipo di conversazione pubblica? Perché io sono una persona pubblica che non si può citare, ma vaffanculo te, quel cazzo di amici. Se siete venuti nel mio l'opera per beneficenza, vi faccio sta rima come se fosse oro che cola. Non ti pago in soldi, io ti pago in benza gutturale, venuta giù dall'esofago tipo un vomito. Non c'ho più voglia di sentir parlare la mia testa di voi. Vi distruggo stavolta dentro al mio microfono. L'esigenza mia di cantare del tutto psichiatrica, culturale. Che me ne fotte di me se te ne fotte di me, non te ne è mai fregato un cazzo, anzi forse del cazzo te ne è fregato di me. Ma io non volevo solo sesso, volevo sposarti. No, non puoi dire questo di me. Forse non posso, ma posso perché il mio psichiatrica pretende. C'è davanti il parasputi e mi guarda a stento e dice: fermati, ti prego, non posso capire. Vai più lento, io rimo. Ho la testa che pensa a stento, un po' più lento. Ma esigenza di comunicare, ma se ne sento uno, se ne sento due, e se non sento i numeri che parlano, il conto in banca, non sento niente, sento solo: vorrei scoparti su questo tavolo proprio come gli altri, senza darti nemmeno il saluto, senza poi nemmeno prenderti nel mano, accompagnarti contro il muro e sbatterti fino a farti ingoiare sperma e romperti i denti. Non è abbastanza duro, beh, dicono la libertà d'espressione. Non dovrei poter essere citato se in questa traccia cito che tutta questa traccia è inventata, i nomi e i luoghi sono assolutamente casuali, anche se poi riferiti a persone e contesti, ma è tutto a livello... I'm a joking, I'm a walking, I'm not a double walking, I'm expressing myself everything about my talking. My psycho is my microphone, she, cause this, anzi is, I don't know, it's maybe Gemini house. This is a Gemini house, my microphone is myself, my mirror. I don't want shot about it, because I don't want broken myself. My psycho is my reflection, is myself, my session, cause that's the way I get a transfer. You are my transfer, not my crocs. Attenzione ad attraversare le strisce pedonali come i Beatles. Uno di loro è morto perché gli hanno fatto il dito. Attenzione pure a prendere una nave spaziale tipo Pink Floyd. Appena hanno fatto The Wall non è caduto il mattone, ma sono caduti tutti gli altri, siamo caduti noi. Loro erano talmente bravi che nessuno è riuscito ad andare il loro tempo dietro a stento. Ma il miracolo vero, poi abbiamo capito che era la loro musica. Voglio come loro una mega isola dove cazzo rappare tutto il giorno e fare un cazzo, concentrarmi sulla musica solo su un pezzo. Non voglio vicini che rompono il cazzo, non voglio un mitra in bocca, io voglio una pussy. Voglio gigante, così posso dirlo a tutti in un pezzo, che me la son trombata come fossi un maschilista disonesto. Anzi, voglio fare il legale, voglio essere per lei la festa della donna, vestermi come un uomo sessuale in un transsex show, anzi in un Eminem show in minigonna, e farmi additare quando dice che è la gay shit, perché tu non vuoi un uomo, vuoi un gay. No shit. Però non c'è male Dariol che ha capito che ogni donna un po' ha bisogno di un po' di frocitudine, frate, non fa male, non è che se sei gay allora sei omosessuale. La storia dell'hom gay shit è soltanto a livello di estrazione mentale. Ho bisogno di un uomo culturale che sappia leggere, informare la gente riguardo ste tematiche, come un microfono che potrebbe dire abbastanza del proprio psicologo. È meglio frequentare un po' di più se sei come me, perché io non ho bisogno del rap, ho bisogno di essere come quello che adesso è entrato in me, indovina chi è, non si sa chi arriva in sto rap dentro di me. Proprio così, cazzo, è quello. Shit. Oh shit, holy shit, man. This is a crazy race about tracks. These are the railroad tracks like an Eminem. And I don't know very well it. Ooh, and this track. Frate, sono un miracolo, tu non mi imitare, come fare tre salti indietro, ma in un'overdose, in una dose mortale. Questa è la rima che scrivo, fast come un cigno che vola a pelo d'acqua, poi prende il velo, non si sa come vola. Della sposa io sono il bouquet lanciato indietro, il prossimo dietro che a sposare non so, e quindi io faccio un rima d'autore. Questo è Lorenzo Dariol Maria e non un untore. Vado veloce solo per dimostrare a qualcuno che non diceva che non avrei saputo fare un freestyle veloce come una luce densa che non va M uguale C quadrato. Rimango qui, sono sofisticato, rimo pure di fisica, rimango qui pure come una bomba atomica col fisico di una roccia, non mi puoi spostare, io sono un arsenale di rime mai scritte, ma che ho dentro incise corrette. È arrivato il prof di disegno che vuole fare un consiglio, frate parla di te, di arte, di com'era meglio quando avevi i tuoi occhi, non siamo mica tutti stolti. Tu vuoi andare a letto con lei, ma no, o lo dici o non lo dici, è uguale, perché la sostanza non è ciò che determina l'uguaglianza, ma ciò che si divide, si diversifica per sostanza. Io la vorrei portare sì a letto, ma per vedere come va pure lì, perché se volevo qualcosa magari non era solo quella, era una fase overdosa di una sposa che non vuole sposare uno come me. Sai prof che c'è, la tua densità della tecnica è soltanto occulta, esoterica, metafisica, e poi magari è soltanto poesia, un po' così stavolta, no, ma mi sa che hai colto nel segno, fra, non è mica un poema di Dante. Non è mica che tu c'è un testo nel testa che ti fa un po' peso, fra, e usi l'eroina per sfuggire alla penna, e magari in testa c'è la Divina Commedia rifatta cover in mixtape, e allora facci un mixtape, io facci un mixtape con tutta la merda che in testa, se anche ripeti una frase pulita diventa. Ah, mi sa che il prof punta all'eternità su sto freestyle, non ho mai visto nessuno come una freccia, perché sono freccia di Dante, sono la cacca di Lucifero e nello stesso tempo sono pulito come un cigno splendente. Mente dice solo quello che vuole dire la gente, no, ha detto un po' di cose, però non so chi sta arrivando. forse se saluto tipo capo del mondo, mano di Dios, arriva a tirare, a barare di mano pure Diego Armando, mano di Dios, vola alto nel cielo, mi metto una fascia nera. Al tuo funerale io non vengo col pompa, vengo con la Bibbia del mio flow e te la rappo, grazie bro, tutta, te la rappo tutta. E sta traccia, dedicata a tutti i morti come Ricky, che volevano diventare miti, che volevano forse essere stupiti di un mondo che gli appariva negli occhi e poi... Oggi posso rapparci anche se non vorrei, ma... prova a ridere su questa cosa. Prova a ridere di uno morto, fra... Com'è, non ridi più e se muoio io cosa succede? Giusto per ricordare, non ero un orco, ma se volete vedere un orco, allora prima pensa che mi vuoi morto, fra. Io non sono un mostro, sono sua santità del male. Sul microfono fraccio, non suono, non canto, io so tuonare. Non sono una lingua malata, io sono lingua del diavolo. Te faccio una tomba grossa come un tavolo. Ti faccio rimanere secco se era soltanto un tavolino da fare. Io faccio, ma fome Picasso. Faccio una rima che ti lascia di ghiaccio, Michelangelo, lascialo stare. Non era proprio quello, non era la congiunzione con Dio che volevo, ma una Lambo guidare. Cercami meglio sotto la parola cash, bre, perché non voglio fare te, ma me. Ne ho dentro 33, trentini entrarono dentro di me trotterellando, cantando sto rap, bra. Voglio farti i complimenti perché questa è la rima più bella che ho sentito in 30 commenti tecnico, frate, è entrato un mito. Voglio dirti stasera che hai fatto rap eccezionale. Io sono Fabri Fiba e sulla claccia vorrei commentare. Sto ragazzo mi fa pure parlare. Vorrei fare una canzone con te. Sei eccezionale, beh, fra lo stesso va bene, anche se poi non mi chiami. O come mi chiami, fa, sono Fango Duma Jigger, sono il re del rap. Su questa traccia sono King Flower, sono meglio di me, non meglio di te, fra, lo faccio solo per rispetto, ma potrei dirlo in un certo senso. Non voglio cagare sul cesso senza permesso, non voglio sporcare la tavoletta, voglio essere onesto. Secondo me tu sei un rapper eccezionale, ma non riesci a dire che Fibra è meglio di te o meno di te su questa base arsenale. Ok, ho una moneta in più, parlo di un altro, fra, così faccio scedi. A te non piaceva registrare una traccia, vedi, ora sei originale come me all'inizio del mio percorso. L'hai fatto alla fine, vuoi dimostrare di essere bravo ad andare veloce, metti il caschetto sta traccia, che cazzo ti devo dire? Quel mix di Fabri Fiba potevi anche poterlo rifiutare, eppure questa mia traccia in volo, sei entrato pure tu e chissà tutto Fabio Volo. Beh, sono Fabio Volo, registro in una radio uno show che Lorenzo ascoltava un po' di anni fa. Rimango su una traccia, il suo tormento più preferito, perché ho venduto 1 milione di copie e non neanche un disco. Del mio libro io faccio ciò che voglio, non dire soltanto la sostanza del tuo sogno, perché... Giulietta, ti prego, credimi, questa è la sostanza del sogno, vedi? Io sono soltanto in crisi, non sono andato con 3 transessuali, con quelle 250 puttane che avevano pure il condom tra le mani. Non mi hanno succhiato il cazzo e poi mi hanno preso il pisello, mi hanno succhiato il netto del liquido seminale. Hanno detto alla fine che non era seminale, era Stendhal, che c'ho una sindrome sul cazzo che si chiama... Magic stick, I got a magic stick, però non davanti a sua santità Snoop Dogg, non sono sua santità 50 e nemmeno Shady, vedi, sono ancora sui miei piedi, ma il mio fango non sa più di merda, ma stranamente Stay with a dead baby. No, oh, aspetta. Scusa, tutta la traccia è andata bene, faccio questa. Stay with a dead boy is a way loot. Ricky, I sing with you. I paint with you. I ride with you. Ce li abbiamo distrutti, fra. Se eravamo la casa di Gemini, ti faccio lo un saluto dall'aldilà. Ciao Ricky, digli a tutti quei miti che ancora li porto dentro e non so come. C'è dentro troppo vuoto, troppo torpore. Non distingo mio da mette, non distingo MTV dalla mia soul, perché quando dici superstella io penso ai miei quadri, quando dici Google Nine beh vedi tipo casa mia, quando dici farmacia io penso subito alle astronavi di Betty tornando a casa, vedi abbiamo preso due spalle, ci siamo fatti pipetti, pipetti, bravi pipetti. Questa cosa non era vera, ma un po' per farti ridere, caro Betty, tu sei Omega o tipo Omega, io posso scrivere, possiamo scrivergli che magari l'RNA mutevole. Non posso, è disdicevole, è un segreto, fratello. Non dobbiamo dirlo alla nazione, è un segreto, perché questa roba qualcuno la potrebbe pur condividere e spargere la voce. Non puoi dirlo, non puoi dirlo, è il Covid, cioè i Majestic 12 hanno progettato 12 esercito di scimmie, 12, quindi potranno essere in 12, tipo comandati dagli Anunnaki, presi e portati su astronavi in cui gli hanno detto spargete questo DNA alieno a un RNA che muta il vostro codice genetico. Fra, questa roba è segreta, ma chi ti l'ha detta? Questo RNA vuole soltanto mutare il codice genetico umano per farlo diventare clean and clear. Tipo un malato che c'ha l'handicap del Down. Si prende il Covid prima se non muori o dopo il DNA muta e la tua genealogia cambia. L'RNA, il DNA muta per formare un DNA dallo sperma più pulito, ma cambiamo da scienza. Sono la psicologia, sono di questa la magia. Ti entro in testa, ti metto dentro il più bel sogno. Ti entro in testa, ti metto dentro il tuo bel sogno. Your dream come real now. Manco ti sparassi e ti togliessi la parte down. You are a bitch, you are a lady forever. In your mind, my hypnosis, you are a lady forever. My trust in my heart, don't understand what I tell you, maybe. You need no translate if you remember you. Ti ricorderò tipo positron, la mia arma nerd che ti fa la merda, un po' come quelli che vedi su YouTube ma più fico, quel nerd eccezionale con 230 di cervellano sono io, che fa il nerd ma rap più di un rap per dentro un rapper tipo Matrioska. Voglio farti una promessa, questa volta hai detto una cosa che mi è rimasta in testa, la Matrioska, ma perché ragazzo, dimmi, spiegamelo in fretta. Perché se io metto dentro Pippo Baudo, Paolo Limido e poi ci metto Lavarale, poi dentro Lavarale, Paolo Limido, metto pure Stefan e la Guglielmenko, poi ci metto Fabio Tenco, Fabio Volo e pure Tormento. Nessuno se li mangia, sarebbe troppo, capisci? Chi erano quelli della Matrioska? Che ne dici? This is no sense, but it's a sense for the psycho. Maybe you not try a sense if you not express about all you what you have in your mind by a microphone line. Bring, bring, doctor, I need a medicine for my pain of my. Sono stanco. Le mie gambe mi fanno male, ho bisogno di droga, se no non mi rialzo. Come glielo faccio a dire? Lo dico davanti al mio psicologo, il mio microfono, come se lo dicessi a lei. Io non sono pazzo, io sono loco. Logo? Logos? Miyagi? Milagros? O come la canzone o come Milagros? Milagros, che ne pensi? Per me era la nuova Dendy. E dico soltanto che hai detto una roba trendy. Però sai cosa ti dico? Per me era la nuova. La nuova Biblioteca Universale del Sapere. La mia mente è un libro di te nella mia mente, vicino a. Dillo te, dai, entra nella mia stanza, parla come fossi dalla mia mente, vai, provo. Allora, io come dice Lorenzo, vai, vai, come dice Lorenzo, sono la nuova opera d'arte a Barcellona, prima io, poi te, manco fosse bella, brava, bella, buona. Così ci siamo, così è un vero pimper, un vero pappone, cazzo, prendi e metti la mano nel tuo portafoglio e tira fuori il grano per lei, perché non ce l'ha, anzi, dategli pure il carefree mio, che cazzo me ne frega un cazzo, mega, se sull'Arab, Arab Paolo, ho bisogno di tornare arrabato come un Paolo, come un Pablo, Peruda, come se fossi dentro un barracuda. Dentro una traccia sputo prima il nome e poi te, perché mi sono sbagliato tra Paolo e Pablo e Neruda. Sparo, non sei nemmeno Pablo perché ho un video di te con una cosa. Bah. Non dire che poi non te l'avevo detto, citami in giudizio, sì, ma il cognome non c'è. E quindi stai pure zitto, è entrato qualcuno malmesso, che forse mi ha messo qualche bocca in più di me, ma questa è la psiche mia corrotta dal tempo. Mi hanno picchiato, frate. Sto andando a tempo, tipo un treno, un po' più lento, ma comunque efficace. Da piccolo mi picchiavano, mi facevano male. Io non sapevo che era male, dolore, il dito nel culo di togliere quella cacca di merda. Cazzo, come un dao mi hanno trattato. Mica mi hanno svegliato e mi hanno detto che dovevo solo spingere, magari un po' di insalata. Meno pane. Il dottore dei miracoli diceva che praticamente era quella la soluzione: intoppare il culo con un chilo di pasta e poi sarei cagato, pisciato a letto. Ma questa frase, frate, sai perché l'ho detta? Perché in giro c'è in giro questa voce da tempo. Ti voglio soltanto cucire la bocca per sempre. Dentro sta base non sei stato mai, io sono sempre pieno di guai. C'ho il talento di fare sto rap all'inverso, pure se repassi di sesso senza dire soltanto che c'ho la bega di 2 metri contro un TV screen che voglio spaccarti, soltanto perché c'ho voglia e libertà di espressione e non voglio sfogarti, non voglio farti lamentare di poi ciò che vedi e senti dalla tele, se poi dalla tele vedi il mio cazzo in maniera subliminale, ma. È Magic Cracks in the Tracks, this is a railroad track. Mi sto facendo un pompino come cazzo. E mo lo devo pagare, porco Dio. C'è capito dentro tutto questo. Ma chi siamo qua dentro? C'è ancora qualcuno? Facciamo un party, dai. Facciamo un party per annegarti nel lago. Dove ci sarà? No, beh, questo no, va bene, facciamo una cosa seria perché il Dario è ovvio, cioè, capito. This is a sad things. Lorenzo, va' a tempo, non perdere il ritmo. Fai quello che nessuno ha mai fatto su una traccia. Faglielo vedere a quella. Sì, faglielo vedere a quella. Così devi andare, così devi dire. Prendi, sì, quel banchiere e spaccagli la testa. Sulla cassa, digli che quel Nobel non c'era prima. Non c'era, hai capito? Lui te l'ha detto, ma non c'era. Informati, vedrai che non c'era quel tetto mondiale che volevi creare. Bene, sono il banchiere e le dico che. Cazzo, le devo dire che non c'era. Gli ho rubato il Nobel e l'ho dato. Mio figlio, che le devo dire? Sto impazzendo dentro lei, sento proprio che lei dovrà dei soldi. Ma non faccia così, non mi metta 90, non mi metta 90, sparando, non vuole sparare. Mi basta solo contrattualizzare la cosa, mettere nero su bianco, magari su un bel assegno, io poi me ne vado a fanculo con degno, sdegno di lei, di tutta la sua razza. Perché io non sono mica un pornatore, caro direttore, io sono soltanto un molestatore di omosessuali come lei che vanno in giro in cerca di bambini nei siti porno e poi fanno magari bella faccia davanti a quelli che servono a mezzogiorno alla mensa dei poveri perché non hanno più una lira, perché hanno giocato tutto alle macchinette, ma poi si presentano al lavoro sperando che avranno lo stipendio, magari si puliscono il culo davanti a un omosessuale perché gli è venuto dentro. Yeah, I just killed you this shit, bitch. Yeah, monster help me. Oh. Pronto. One, two, three, ready and go. This is my show, this is my floor. Non parlo inglese, io parlo bro. Questo è il mio cortese. Aggiungerci. Aggiungerti, il plurale maestatis, a Oniro, perché tu veramente hai celebrato una traccia, bravo, come Fabri Fibra. Mi sembra proprio che hai capito il genere di roba che ci piace ascoltare, ci piaceva tanto anche a me. Io sembravo proprio così, uno che gli piaceva il rap, ma non sapeva rappare adesso. Adesso cosa c'è? Cosa fai su una traccia? Magari fai breccia nel cuore di una poco di buono o di una mongoloide con sta roba, ma prima com'era? E quando magari inizia sta cazzo di traccia, non inizia più, fa sempre sto ritmo che non mi è venuto un cazzo, mi è venuto solo da ridere.